fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Luna e 29 del mattino, benvenuti, benvenuti a tutti, buongiorno, buonasera o buonanotte, come ci piace dire in base al momento in cui ci state ascoltando. Questa è Risto Radio Convento, io ovviamente sono Master Nick e come sapete il nostro motto è per raccontarsi e per raccontare, e ci sono momenti davvero importanti nella vita di una persona da raccontare, come questo che vivremo nei prossimi minuti insieme a lei, a una delle protagoniste del nostro sabato sera indiscussa, soprattutto perché, dicevamo, è una serata davvero davvero importante. Diamo il benvenuto a Sabrina. Buonasera. Oh, ciao Sabrina, come va? Bene, bene, ti senti un po' più grande, un po' più alta? No, non è cambiato, cioè sempre mi piace la Sabrina di sempre, la Sabrina che non è cambiata. Perché dai, raccontaci un po' cosa succede questa sera, che è una giornata, anzi, intanto cominciamo a capire quando è stata la giornata importante, se veramente stasera. No, è stata ieri sera, 16 novembre. Ieri sera? Sì. Ok. Festeggio stasera, insieme a tutti i miei amici presenti qui. Ah, perfetto, perfetto. Quanti siete? So, siete un tavolo grossissimo, visto prima. Siamo in 16 e qui presenti con me sono in 7-8. Quanti, quanti? 7-8. Urca, bello, bello. E, dicevi, quindi ieri sera è il tuo compleanno, quindi, e non ci hai detto da dove vieni? Da Nuvolento. Ok. Brescia. E... vai, vai, vai, racconta. Felice di essere entrata nel mondo degli adulti. Oh, c'è bello, come piace dire a noi, come piace dire a noi, benvenuta nel mondo degli adulti. Grazie. Ok, ok, perfetto. Sì, sì, che stiamo anche preparando un po' di cose qui. Allora, chi intanto presentaci un po' anche i tuoi amici, o non so se sono tutti amici, magari qualche parente, compagno di scuola. No, qui sono tutti amici, parenti, sono rimasti al tavolo perché essendo stranieri non parlano molto bene l'italiano. Ah, perché aspetta, da dove vieni? Dalla Romania. Ah, dalla Romania, e da quanto tempo sei qui? Da quando avevo 3 anni. Anche perché Sabrina è un nome italianissimo. Sì. Allora, vi presento qui con me il numeroso Fabio. Brava, che è partito da Fabio, giusto, giusto. Benvenuti, benvenuto, poi? Gloria. Manchi tu nell'aria, intanto. Che non nessuno gliel'avrà mai detto, quindi siamo anche originali. Nicola. Che è il nome più bello del mondo, poi? Cristian. Benvenuto, Cristian. Danieli. Bello, mi piace che non ricordi i nomi dei tuoi amici, è una bella cosa. Cioè, c'è del sentimento. Ah, è per quello. Guarda che queste serate sono importanti perché ti fanno capire il tipo di rapporto che c'è. Quindi io comincerei a farmi delle domande sul vostro. Perché non, cioè, nel senso, non ricordarsi cosa hai fatto il 12 febbraio del 2008 è qualcosa, non ricordarsi il suo nome. Insomma, la vecchiaia avanza, diciamo, cambia, giusto, giusto. Diciamo che è già proprio in quella fase in cui comincia a dimenticare, cioè ogni anno dimentica un nome, il primo anno da 18 in avanti è toccato a te, è toccato a te. Poi abbiamo Silvia e Alessia. Brava, ha avuto il tempo di prepararsele queste. Queste se le ha studiate, se le ha ripassate, bene. Aspetta, questa dov'è che l'ho vista? Questa, oddio, mi ricordo, l'avevo già vista. Ah sì, Alessia. No, stavo. Ero il suo cervello, no? Che stava parlando. Allora io questa l'ho già vista, dove l'ho già. Alessia. Sabrina, non sbagliare, Alessia. Ah, Alessia, ci sei, pronta? Alessia! Vedi? Alessia, via! Bene, c'è. Allora, la grande domanda che tutti fanno e che tutti si fanno e che purtroppo ti tocca farti è: come ci si sente avere 18 anni? Diciamo che ci sono dei pro e dei contro. Attenzione, perché già parte interessante, di solito tutti dicono non è cambiato nulla, già tu mi parti dicendo ci sono pro e contro, vuol dire che vai, continua pure. Penso che sia l'età giusta per iniziare a capire più come funziona la vita realmente, iniziare a pensare a cosa si vuole veramente nella vita e darsi davvero da fare rispetto a certi ragazzi che magari, adesso non voglio offendere quelli che magari di 30 anni vivono ancora con i genitori. Uh-huh. Però penso proprio che sia un punto assolutamente importante della vita di ciascuno di noi, che ci fa capire che la vita non è sempre come vogliamo e come magari a 14-15 anni pensiamo di avere il mondo in mano. Uh-huh. Ma dobbiamo proprio darci da fare per avere un futuro migliore. Bello, bello, bello. Tra l'altro ci ha appena chiamato Alberto Angela di Super Quark, che ci ha detto che ti affiderà una puntata sabato prossimo per parlare del destino dei diciottenni. Questo è il tema della, della puntata. No, bello, mi piace questa tua riflessione. Cosa fai di bello nella vita, Sabrina? Allora, sono una studentessa del Battisti, sarò al turistico. Turistico, con la speranza o ambizione di diventare? Un'interprete in lingua straniera. Una? Un'interprete. E perché ci hai passato dal turistico? Perché mi piacciono le lingue. Ah, ok, quindi poi ti specializzerai però, cioè nel senso non è ancora... Poi affinerai il tuo percorso, interprete lingue straniere. Ne hai già qualcuno in mente? Inglese, spagnolo, tedesco e cinese. Ok, ma qui in Italia ti piacerebbe viaggiare? Mi piacerebbe viaggiare, andare ad esempio in Spagna. Cavolo. In Australia. L'idea è chiara, è la nostra Sabrina. Mi piace, una ragazza decisa e che sa benissimo quello che vuole dalla vita. Qualcuno di voi ragazzi vuol dire qualcosa? Dai, su. Vuole approfittare? Dai, su. Io farei parlare l'innominato, colui che ha perso il ricordo del suo nome nella vita di Sabrina, che mi sembra giusto che adesso si possa vendicare o insomma anche farci sapere come si sente, come ci si sente essere dimenticati. In effetti fino adesso mi sentivo bene, la festa era andata bene. Cambia però tutto. Però adesso è cambiato tutto, sì. Sì. Sapendo questa cosa che non sa il nome, cambierà il futuro anche. Addirittura, attenzione, così sono. Mi farò perdonare nei prossimi 2 secondi, dai. Sono. E come? Attenzione, perché i 2 secondi sono pochissimo tempo. Come pensi di farti perdonare? No, dai, cioè. È una cosa tremenda. Ah, ok, va bene. No, giusto, non deve diventare pubblica assolutamente, no. Bene. Ragazzi, qualcuno ci vuole dire qualcosa? No, beh, non è detto nulla, tra l'altro. Auguri. E come si dice in rumeno, approfittiamone quindi? Anzi, facciamo così, partiamo con un mini test turistico-linguistico. Vai con rumeno. Auguri Sabrina. La Mulțean Sabrina. Ok, in inglese? Happy birthday Sabrina. E in francese? Buon compleanno Sabrina. Ah no, in francese scherzo. Perfetto, direi che. Secondo me Sabrina ha. Ah ok, bene. Sabrina ha un po' la malattia della pesciolina Dory, del film di Nemo, quella alla ricerca di Nemo. Lei ogni tanto stacca. Cioè parte tutto il cervello, si dissocia dal mondo esterno. E no, perfetto. Cinese, che è il più interessante. Devo ancora studiare. Ah ok, pensavo che già avessi iniziato a... Bene, può essere un incentivo per cominciare a farlo. Però bello che ci hai dato questi messaggi. Puoi dire magari qualcosa tu a questo punto? Niente, ci stiamo divertendo. Vi auguro che anche voi vi stiate divertendo. E niente, buon sabato sera. Bello, grazie mille. Allora, grazie a te Sabrina, grazie a tutti i tuoi amici che ci hai portato qui e che sono stati con noi. Anche noi ti auguriamo tanti auguri per i tuoi 18 anni e un futuro bello, importante, che già hai in mente, quindi sono certo si avvererà nel migliore dei modi. Grazie mille Sabrina e tanti auguri!